Ha preso la scossa. Ha preso la scossa. Ah, oh. Fagin. La scossa. La candela, dove devo metterla? Aspetta, vuoi che ti dica il primo posto che mi metti? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Cosa fai? Voglio vedere te con la candela. Insomma, fa la conduzione come la può, candela, con la candela. Tanto siamo alla radio, cosa devi vedere? Di candela. Guarda, Drago, senti qua, senti. No, ho capito, senti. Sì. Che hai capito, alla fine l'avrete capito tutti che Kappa è entrato a far parte di quel club che ormai si sta allargando. Club, di non essere troppo infatti, cioè è entrato in un mondo. Volevo che è lo il mondo delle tavolette. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, non mi ricordo neanche più, che io cantavo a squarciagola. Voglio uno smartphone, voglio uno smartphone. È bene. Voglio uno smartphone. Ebbene, quindi è arrivato flashback, lo smartphone. Non puoi parlarci sopra. No, Drago, tu lo fai così, in diretta il flashback. Io pensavo che fosse una roba di flashback. Vabbè, allora perché devi farlo in flashback? Cosa non serve? Lo so, a quel punto lo fai così. Vabbè, no? Tu c'hai una candela nel c***o e parli. Eh sì, Kappa è entrato nel mondo dello smartphone, delle tavolette, insomma queste stupidissime appunto tavolette di tecnologia che fanno i suonini, i giochini. Ma il mio telefono, che alla fine anche, cioè sì, fai il suonino, ma come è gigantesco come telefono, la dimensione di un toast farcito, come fai? Ma non è vero, toast farcito vicino all'orecchio. Guarda, pronto? Pronto? No, pronto, cosa? Non c'è nessuno all'altro capo. Non so, per farti vedere le dimensioni, no? dell'atteggiamento. Allora del... Pronto? Che pronto? Pronto, sono alto 2 metri, c'ho un telefono che sembra una videocassetta, però pronto? Pronto? Vedi, se l'ho messo nel... Pronto? Posso mettere fare... Pronto? Anche se mi metto così faccio... Pronto? Pronto? Sono Batman. Ciao Batman, sì, ho il telefono nuovo. Mi vedi? Con Skype? Ma tu dove sei? Ma prende la Batcaverna o no? Otsuka Norigatsu, famoso presentatore TV giapponese, mangia le verdure di Fukushima in TV e ora ha la leucemia. Però almeno lui lo sa. Lo sappiamo anche noi qui all'asilo, è logico che lo sappia anche lui. No, gli abitanti di Fukushima invece non lo sanno. Pensa che i bambini portano tutti al collo un rilevatore di assorbimento di radiazioni chiuso in un sacchetto di plastica. E ogni 3 mesi questi rilevatori vengono ritirati dagli incaricati della prefettura ed esaminati. A ogni codice corrisponde un bambino, però i dati al momento non vengono resi noti, solo gli uffici governativi li conoscono. Meno male. Ma come meno male? Ma non si può far sapere a migliaia di persone che sono tutte ammalate gravemente. Non si può. Se sono malate andrebbero curate, non solo monitorate, lo sai, se vedi. Sì, ma il Giappone, lì ragionano a peso, no? A numero. Ah sì, in Asia. Una città intera da curare non è economicamente vantaggiosa. Ah no. È meglio che la città sparisca, te lo devo insegnare io. Anzi, non fossimo nell'epoca della tecnologia e delle notizie che fanno il giro del mondo in 2 minuti, tac tac tac tac. Il governo giapponese avrebbe già provveduto a cancellare Fukushima dalle carte geografiche e a dire che non è mai esistito. Mai esistito? Tutto va bene, tralalero, tralalò. Ma come va bene, tralalero, tralalà? In giapponese com'è? Tralalelo, tralalà. No. non siete musulmani, ecco, e festeggiate Natale, guardate video in video della recita del 15 dicembre su YouTube, mi raccomando. Allarme. Vabbè, ricordatevi che potete prenotare il vostro comodo posto a sedere semplicemente scrivendo a Chiedo Asilo, chiocciolaradio24.it. comodissimo. Stiamo parlando della recita, la recita di Natale, e quindi come oggetto non cosa so, dovete mettere? Recita di Natale. Ricordatevi anche che il bambino Alberto si aspetta qualche regalino, quindi pensateci per tempo, che manca poco. 2 giorni, Già, il filastrocche, qualcosa arriva. Ringraziamo ad esempio Enrica, che ci ha mandato le sue rivisitazioni delle fiabe classiche in maniera ironica, così in chiave ironica. Sono delle filastrocche ironiche, molto belle, che però ironiche, non hanno niente a che fare col Natale, quindi magari le leggeremo più avanti. Però noi vogliamo delle poesiole di Natale, quelle con la rima baciata, non più di 8 versi. Arrivano solo filastroccone lunghe, belle ma lunghe, come quella di Angela Grimaldi, che dice: è Natale finalmente, la crisi è imponente in questo asilo demenziale dove si mangia sempre male. Babbo Natale si è scordato che Tremonti se n'è andato, ma ha lasciato in agenda Lici, che farà tutti più felici. Quindi, insomma, cara Angela, anzi no, di Angela. No, Angela. Angela, perché Angela. Di Angela tutto maiuscolo. Quella di Angela Grimaldi, leggi bene. Ecco, studiare la metrica, importante la metrica. Quindi bravi, però siate brevi. Bravi e brevi, sì, è il target, chiaro? Bravi e brevi. Cosa ridi? Bravi e brevi. Ecco i tweet, questi sono i tweet. Sai che i cardinali ci sono anche su Twitter, quindi questo era un tweet cardinalizio. Ci sono pochi cardinali che hanno Twitter, ce ne sono 5, e tra di loro ci sono anche 2 italiani, Ravasi e Scola, ecco. Sei contento? Tu ogni tanto hai queste derive alla Oreste De Fornari, ti ricordi Oreste De Fornari? Ma certo, un mio modello di riferimento in effetti, lui e la bellissima Gloria De Antonio, nella Rai 3 degli anni 90, no? Ma sai che Nicoletti lo scambiano sempre per De Fornari? Ah sì, come mai? Cioè, non lo so, perché non lo scambiano per Claudio Gifava. Ah no, è diverso, no, da Nicoletti. Erano insieme, forse tutti nello stesso. Comunque, non lo so. Sono i misteri della memoria collettiva. Però dai, torniamo ai cardinali cinguettanti. Torniamo. Al primo posto si trova l'arcivescovo di San Paolo del Brasile, il cardinale Odilo Scherer, che conta ben 7.566 follower. Subito dopo si piazza il nostro Gianfranco Ravasi, che conta 3.453 followers. Al terzo posto troviamo il cardinale arcivescovo di Boston, Sean Patrick O'Malley, con 1993 followers, tutti minorenni, mentre in quarta posizione c'è Norberto Rivera, arcivescovo primate del Messico. Un primate, sì, poverino, vabbè, anche lui fa un po' di evangelizzazione. E poi lo segue l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che ha 1387 di questi followers. Io mi chiedo però, anzi, non te lo chiedi anche tu? Sì, che cosa si dicono tutti questi cardinali su Twitter? Allora, loro scrivono frasi del Vangelo, oppure massime su Gesù. Ad esempio, Ravasi ha scritto una frase di Alfredo Oriani dedicata a Gesù, che dice: credenti o increduli, nessuno sa sottrarsi all'incanto di quella figura. Frase che potrebbe essere riferita anche a Babbo Natale. Vabbè, comunque tra i preti gira la battuta: se San Paolo tornasse oggi farebbe il giornalista. Sai che San Paolo è stato un po' l'ufficio stampa del cristianesimo, no? Grazie a lui tutto quanto. Quindi, aggiornando la battuta al 2011, possiamo dire che se San Paolo tornasse oggi userebbe Twitter. Sì, proprio sono qua, mi sto squarciando la pancia dalle risate. Umorismo da preti. No, è umorismo da drago. Chiedo asilo, tutti buoni, buoni, tutti carini. Ecco, avete capito? Chiedo asilo è radio24.it. Prenotatevi per giovedì 15 dicembre. Babbo Natale esiste.